Hola coro berasai mia di rohaki Sai tu hola tu ho jola pikiraki Nam pedu leleng hita marsira Dang hea Halo.